Italia in controluce. 11 settembre, una data che ha attraversato la storia della seconda parte del Novecento, una data che ha attraversato la storia degli anni 2000. Partiamo da qui. 40 anni fa la dittatura del generale Pinochet soffocava nel sangue l'esperienza di Salvador Allende e della sua Unidad Popular. 12 anni fa, 11 settembre 2001, un attacco terroristico di Al-Qaeda progettato su vasta scala metteva in ginocchio gli Stati Uniti. Dove eravate l'11 settembre del 1973 oppure l'11 settembre del 2001? Cosa stavate facendo? Quali erano e quali sono e restano i vostri ricordi di quella data? Gli sms degli ascoltatori 349-238-6666, mi raccomando firmateli con nome e cognome se è possibile e soprattutto con la città da dove scrivete, da dove chiamate. Il nostro racconto inizia dall'11 settembre del 73, Santiago del Cile, sono le 8 del mattino, il presidente cileno Allende, socialista, esponente di Unidad Popular, parla da Radio Magallanes mentre è in atto un colpo di stato del generale Augusto Pinochet. Il Palazzo della Moneda, dove Allende è asserragliato, è bombardato dall'aeronautica. Queste sono le mie ultime parole, diceva Allende. Sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la felonia, la codardia e il tradimento. Così parlava Salvador Allende alla Nazione in quella mattina durissima, tristissima dell'11 settembre del 73 in Cile. Da quel giorno fino all'88, l'anno del referendum contro Pinochet, la giunta golpista finanziata dalla CIA e dall'amministrazione americana guidata da Nixon e Kissinger, e questo lo abbiamo saputo dai documenti che sono stati desegretati nel 1994, iniziò l'eliminazione fisica di tutti gli oppositori, 500.000 esiliati, migliaia di morti, 5.000 desaparecidos accertati dalla commissione Rettin. E oggi è l'11 settembre del 2013 e il Cile è un paese democratico che a novembre finalmente torna alle urne. Da una parte la socialista Michelle Bachelet del Partito Socialista Cileno, già presidente del Cile dal 2006 al 2010, e Evelyn Matthei dell'Unione Democratica Indipendente. Un ascoltatore ci dice: tornavo da una pausa pranzo in una spiaggia ormai deserta, alle 14.50 in auto accesi Radio 24, Michele da Cattolica. Al lavoro come lo sono oggi stesso, posto, stessa città, David da Verona, parlo delle Torri Gemelle. Nel 1973 ero a festeggiare con molti amici la fine di un governo comunista e statalista in Cile che stava portando il popolo cileno alla fame. Scrive Antonio da Pescara. Stavo al lavoro sentendo voi, poi all'improvviso la notizia dell'America, pensavo alla guerra mondiale. Angelo da Milano. 349-238-6666. Alle 15, ora locale dell'11 settembre 2001, stavo comperando casa. Ho preso la notizia negli uffici del notaio. Michele da Udine. Moltissimi sono i primi sms perché l'11 settembre 2001, 17 anni fa, a New York, in atto l'attacco pianificato di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti. Due aerei dirottati da kamikaze prendono di mira le torri del World Trade Center, le torri gemelle che cadono per sempre. Il terzo aereo di linea viene fatto schiantare dai dirottatori contro il Pentagono. Il quarto aereo diretto contro il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington si schianta in un campo vicino a Scanesville, nella contea di Somerset, in Pennsylvania. Dopo che i passeggeri e i membri dell'equipaggio tentarono, senza riuscirci, di riprendere il controllo del velivolo, 3.000 morti. Così da New York, come ci ricordava uno dei nostri ascoltatori, cioè Michele da Cattolica, esattamente alle 14.50 ora italiana, Alessandro Plateroti si collegava da New York e annunciava gli attentati. Alle 9:15 ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center. I due grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario. E vi chiediamo dove eravate l'11 settembre, che cosa stavate facendo, quali sono ancora oggi i vostri ricordi. Quello che avete sentito sono i nostri ricordi, le nostre voci, quello di Alessandro Platerotti che ci annunciava gli attentati. E oggi, 11 settembre 2013, l'America e il mondo ancora ricorda. I think that we are always on heightened alert on 9/11, and we will continue to be. What we've seen over the last decade is, because of the heroism of our troops, because of enormous sacrifices of them and their families, America is safer than it was right before 9/11. Quello che sentite è Obama, perché per commemorare i 3.000 morti tra le macerie delle esplosioni, Obama presenzierà, ha già parlato qualche ora fa, presenzierà una cerimonia al Pentagono con il segretario di Stato Hagel e il capo di Stato Maggiore congiunto Dempsey. Alla cerimonia potranno assistere, lo ricordo, soltanto i parenti delle vittime, e verrà donata una corona in loro memoria. Questo anniversario dell'11 settembre è soprattutto quello americano, quindi non la vicenda, diciamolo, più lontana del 1973 in Cile, coincide con i giorni con una possibile, probabile nuova guerra, cioè la crisi siriana. Per l'ONU vanno verificati i massacri di Assad, non la presenza di arsenali. Per Obama invece c'è spazio ancora per il dialogo, ma i raid contro Assad, ha detto oggi Obama, sono certamente pronti. E di Siria e di memoria dell'11 settembre ha parlato oggi il premier Enrico Letta. Prima di tutto la condanna netta, inequivocabile, la condanna nei confronti dell'utilizzo delle armi chimiche, la censura di un atto che si configura senza alcun dubbio come un crimine contro l'umanità, un crimine che in quanto tale esige una sanzione dura, pronta, adeguata da parte della comunità globale. È questa del resto la posizione dei nostri alleati americani, cui ribadiamo la nostra vicinanza e amicizia, particolarmente oggi, l'11 settembre, un giorno come questo che evoca un dramma che non deve mai più ripetersi. Questo è Enrico Letta che ricorda l'11 settembre. Intanto nel frattempo sono arrivati tantissimi sms, 349-238-6666, vi stiamo chiedendo dove eravate, cosa stavate facendo, quali sono i vostri ricordi dell'11 settembre. Ero all'ospedale per riportare a casa il padre cardiopatico, scrive Silvia. Oggi un altro 11 settembre, perché hanno avuto l'indegnità di non far decadere un politico condannato definitivamente. Nel 73 ero a Roma frequentando il 73esimo corso AUC 2001, in vacanza su una barca alle Figi temendo la terza guerra mondiale, Roberto da Chieri in provincia di Torino. Ero in Kosovo con una ONG italiana, incredulo e preoccupato, scrive Davide. Ero al lavoro che oggi non ho più. Gli Stati Uniti pagano oggi con la politica estera fallimentare di Obama per il loro imperialismo, scrive Andrea da Bologna. Fulgido ricordo di Wojtyła nell'86 al balcone con Pinochet, scrive Enrico Rinaldi, Fontaniva in provincia di Padova. Ancora moltissimi sms. Gli attentati alle Torri Gemelle mi hanno fatto diventare filo occidentale e filo israeliano. Marco da Trento, stavo trasmettendo per radio, ci lavoro da 30 anni. 11 settembre 2001, il mio primo giorno da vigile del fuoco, Corrado da Como. Questa mi piace perché ricordo che l'11 settembre del 2001 in America, a New York, sono morti tantissimi, moltissimi vigili del fuoco mentre stavano facendo il loro lavoro. Mi trovavo a Latina, fuori da un cancello, un mio cliente aveva chiuso la pista kart, ascoltavo però Radio 24, scrive Massimiliano De Filippis. Ero seduto al tavolo di lavoro quando il mio capo prendeva la notizia leggendo sul nuovo.it. Allora c'era questo portale, tutti intorno al PC ci guardavamo in faccia. Anna mi disse: siamo in guerra, Maurizio, un nostro ascoltatore. Grazie a tutti, moltissimi sono i vostri SMS che sono arrivati al 349 238 6666. Vi saluto qui, Daniele Biacchese.